on July the 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. There's a ride going on. Costantemente imbrogliato. Ecco come si può riassumere la carriera di Richard Berry. La prima avvisaglia avviene nel 1954 con questa Riot on a Cell Block No. 9 dei Robbins, scritta dai leggendari Jerry Leiber e Mike Stoller. La coppia non era soddisfatta perché il cantante Bobby Nunn non riusciva a dare il tono minaccioso richiesto dagli autori. Disperati per le disastrose registrazioni, decidono di far cantare le canzoni a un obliquo personaggio della scena losangelina, Richard Berry. Berry è come il prezzemolo, lo puoi trovare ovunque. Canta in tre gruppi contemporaneamente, scrive canzoni per sé e per gli altri e, convinto che i discografici siano per natura dei farabutti, accetta ogni proposta gli venga fatto, a patto di essere pagato sull'unghia. Il cantante riesce ad accontentare Leiber e Stoller, impersonificando perfettamente la rabbia di un recluso svegliato in piena sommossa. Il brano, oltre ad inaugurare il sottogenere del rock carcerario, è un grande hit nel 54, ma Berry non viene accreditato e non vedrà il becco di un quattrino. E una. I fratelli Biari della Modern Records sentono la canzone e riconoscono la voce di Berry, che è sotto contratto con loro. Invece di licenziarlo o multarlo, decidono che, vista l'innata facilità nello scrivere canzoni, la punizione è comporre un pezzo simile a quello dei Robbins. Le royalties, ovviamente, a metà con loro. Nonostante meritasse molto di più, The Big Break non diventa un hit, ma comunque vende benino nella città degli angeli. La seguente fregatura la ottiene poco dopo, quando è protagonista assieme a Etta James del mega successo The Wallflower, conosciuta come Roll With Me Harry. Sul disco del suo nome ovviamente non c'è traccia. I Biari, dopo il successo di Little Richard, portano Berry proprio a New Orleans per registrare qualcosa su quel genere. La penna è come sempre facile. La voce viene di serie e, come il genio di Aladino, esaudisce il desiderio dei suoi capi con questa tracotante Yama Yama Pretty Mama! Yama Yama Pretty Mama! Yama Yama Pretty Mama! Yama Yama Yama Yama Yama Yama Pretty Mama, you look good to me! Well, got a 5-foot baby, cutest thing you'll ever see! Heart full of loving and it's just for me. Yama yama pretty mama. Yama yama pretty mama. Yama yama yama yama yama yama pretty mama, you look good to me. Oh, cats talk about the girl so fine, but wait a minute boys till you see mine. Yama yama pretty mama. Yama yama pretty mama. Yama yama yama yama yama yama pretty mama, you look good to me. Well, I'll make you do anything. Sparkle in her eye, big as a diamond ring. Yama yama pretty mama. Yama yama pretty mama. Yama yama yama yama yama yama pretty mama, you look good to me. Yeah. got the girl so fine. But wait a minute, boy, till you see mine. Yama yama pretty mama, yama yama pretty mama, yama yama yama yama yama yama pretty mama, you look good to me. Well, she got a smile, make you do anything. Sparkle in her eye, big as a diamond ring. Yama yama pretty mama, yama yama pretty mama, yama yama yama yama yama yama pretty mama, you look good to me. Yama yama pretty mama, yama yama pretty mama, yama yama yama yama yama yama pretty mama, you look good to me. If you got the money, I've got the time, we'll go hockey talking that we'll have a time. Il suo primo grande amore era stato Hank Williams, anche perché a Norfolk, in Virginia, era difficile ascoltare qualsiasi altra cosa non fosse country. Quando ha 7 anni, Eugene Vincent Craddock si trasferisce con la famiglia a Madden Point, qualche chilometro a sud di Norfolk, al confine con la Carolina del Nord. È qui che viene a contatto con la musica afroamericana e inizia a praticare con la chitarra. Si esibisce nel portico del negozio di alimentari gestito dai suoi, riuscendo ad attirare sempre nuovi clienti. Quando Eugene ha 14 anni, lasciano Madden Point e tornano a Norfolk per stabilirsi definitivamente. A scuola non ci va volentieri. I compagni lo prendono in giro perché, oltre a essere piccolo e magro, è anche timido e introverso. Lui, invece di perdere tempo nello spiegare gli effetti negativi del bullismo e annoiarli con inutili discorsi filosofici, li prende a botte ottenendo effetti più immediati. Bring along your Cadillac, leave more wreck behind. If you got the money, honey, I've got the time. Lasciata la scuola, si arruola in marina e, dopo essere stato in Corea, nel 55 decide di prolungare per altri 3 anni il servizio militare. Con la notevole somma ottenuta per la firma, si compra una fiammante motocicletta Triumph, con la quale, nel luglio dello stesso anno, ha l'incidente che gli cambia la vita. La gamba sinistra, dal ginocchio in giù, è letteralmente distrutta. I medici insistono per amputarla, ma lui si rifiuta. Gli resterà un dolore cronico, oltre che un'evidente menomazione. In settembre, in un concerto di Hank Snow e i Loving Brothers, viene folgorato da un giovane cantante di nome Elvis Presley e decide di seguirne i passi. Nel febbraio del 56 si presenta al concorso per giovani talenti Country Showtime, il programma della radio locale condotto dal DJ Bill Sheriff Tex Davis. Woman love, hey, hey, hey, woman love, hey. La sua interpretazione di Heartbreak Hotel è così convincente che il DJ invia le registrazioni di Craddock a Ken Nelson della Capitol Records, l'etichetta specializzata in crooners come Sinatra o Nat King Cole, ma ora alla disperata ricerca di un nuovo Elvis. Craddock inizialmente si esibisce con il gruppo della stazione radiofonica, i Virginians, ma poi, visto il crescente successo, quelli della radio decidono di riunire alcuni dei migliori musicisti locali per accompagnare quel ragazzo pallido che ora ha accorciato il suo nome in Jane Vincent. La Capitol manda il ragazzo a registrare nei mitici studi di Owen Bradley a Nashville. Il produttore vorrebbe affiancargli i suoi session men, ma quando sente il gruppo di Craddock, manda i suoi immediatamente a casa. I Blue Caps, da un cappellino che portava il batterista Dickie Bebop Earl esattamente uguale a quello usato dal presidente Eisenhower per giocare a golf, sono una formazione pioniera a due chitarre, dove risalta quella affilatissima di Cliff Gallop, uno dei primi grandi guitar hero degli anni 50, influenza fondamentale per qualsiasi chitarrista che verrà. Le registrazioni del primo single avvengono il 4 maggio. La Capitol ci capisce poco di rock and roll e sceglie come lato A questa A Woman Love, un pezzo che non ottiene nessuna diffusione perché giudicato osceno. In Inghilterra è addirittura proibito perché la censura giura aver sentito la parola fuck nel testo. Sembra destinato al fallimento, ma grazie a un DJ di Baltimore, il lato B inizia a diffondersi. La canzone l'aveva composto durante la degenza nell'ospedale militare assieme al commilitone Donald Graves, che per soli $25 cede la sua metà dei diritti. Uno dei peggiori affari della storia. Il brano è ispirato dal popolare personaggio dei fumetti Little Lulu e musicalmente prende spunto sia da Money On dei Drifters che da Bee Babaliba di Alan Humes. Inizialmente in molti lo confondono con Elvis, sia per la voce, ma anche per quell'eco slapback di Philipsiana memoria. Anche le cifre di vendita sembrano quelle del re. 300.000 copie nelle prime 3 settimane, in 5 mesi passa i 2 milioni. Va nei posti alti di tutte le classifiche, 7° posto pop, 5° country e 6° rhythm and blues, ma soprattutto contribuisce a far nascere l'iconologia del rock, cantando le eccellenze di Lula, la prima ragazza rocker a essere protagonista di un testo, la regina inguainata nei suoi jeans rossi che fa girare la testa a tutti quanti. Loro sono Jane Vincent and the Blue Caps e questa l'immortale Bebop Lula. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't want my baby. Bebop Lula, cheat. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. La loro fama li precedeva. Attaccabrighe, rissosi, sbandati, teste calde. Queste erano le parole usate per descriverli i fratelli Burnett. E per una volta era tutto vero. Dorsey, il maggiore, e Johnny, di 2 anni più piccolo, sono i figli dell'umile famiglia Burnett, che risiede a Memphis nelle case popolari di Lauderdale Courts, dove avevano vissuto anche Gladys e Vernon Presley, assieme al loro figlioletto Elvis. I genitori, per tenere buoni i maneschi fratellini, regalano loro 2 chitarre Genotri. Durano un amen, perché se le spaccano immediatamente sulla testa. Le premesse ci sono tutte, anche perché hanno solo 6 e 4 anni. La scuola è la stessa di Elvis. Si conoscono e si salutano, ma niente più. Presley li teme per la loro aggressività, tanto che li chiama come la famosa gang di fuorilegge, i Dalton. Per menare ancora di più le mani, si mettono nel mondo della box. Johnny vince il titolo dei leggeri della città. Dorsey invece è un fenomeno. Nella stessa categoria ha un record di 18 vittorie con 0 sconfitte, vincendo la cintura di campione della divisione del Midwest. In finale si scontra con Pearl Burleson, ottimo pugile e chitarrista in una band di hillbilly fin dalla fine degli anni 40. Nel 52 i tre decidono di formare un gruppo, i Rhythm Rangers, autori di un country molto ritmato e di un single tirato 200 copie che contiene questa You're Undecided. You're undecided, what you gonna do? You're undecided, what you gonna do? Del gruppo fa parte prima un violinista, poi il bassista Jimmy Black, fratello di Bill, ma entrambi abbandonano stanchi delle continue risse che si scatenano a ogni concerto. Dopo alcuni impieghi saltuari, Dorsey e Pearl Burleson trovano lavoro alla Crown Electric, la stessa ditta dove Elvis fa il camionista, e proprio su ispirazione di ciò che stava facendo lui con Bill Black e Scotty Moore, anche loro decidono di provare fortuna con quella musica. Bussano alla porta della Sun, ma vengono respinti perché Sam Phillips li reputa troppo simili a Elvis. Quindi, senza pensarci su, partono per New York, dove i due elettricisti hanno un lavoro assicurato dal sindacato, mentre Johnny trova nel settore dell'abbigliamento. Si presentano al concorso per giovani talenti Ted McAmateur Hour, vincendolo per 3 settimane di fila. You take a heart, you break a heart, you leave a heart that's true, you're undecided. Il loro rockabilly senza fronzoli viene notato da alcune discografiche. You're undecided. Il gruppo accetta l'offerta della Coral, sussidiaria della Decca, perché rispetto alle altre concede più libertà nella scelta del materiale da suonare. This breaking up. A dimostrazione di quanto la Coral si è preparata in materia di rock and roll, il giorno delle registrazioni fa trovare alla band un'orchestra di 32 elementi. Ovviamente spediscono tutti a casa meno un batterista. Da queste session newyorkine scaturisce il loro primo single, con un riarrangiamento della loro You Run Decided che finirà sul lato B. Il lato A è una canzone veloce scritta da Dorsey in pochi minuti, uno standard del più puro rockabilly chiamato Tear It Up. L'unico grosso problema è il nome della band. Dopo molte discussioni, i tre decidono per The Rock and Roll Trio, ma la Cora rovina tutto mettendosi davanti il nome del belloccio Johnny, causando irrimediabili dissidi fra i due fratelli. Meteorici ma responsabili di un grande Big Bang, loro sono Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio e questo è il loro aperitivo. Tero! Come on little baby, let's tear that dance floor up. Come on little baby, let's tear that dance floor up. Come on little mama, let me see you strut your stuff. Strut your stuff. I'm a leaving little baby, gonna be gone a long, long time. I'm a leaving little baby, gonna be gone a long, long time. So come on little baby and show me a real cool time. Tear it up, tear it up, tear it up, ow! Tear it up. So come on little mama, let's tear that dance floor up. You step back, baby, move my way. Step around again and let me hear you say, tear it up, tear it up. Come on, little baby, let's tear that dance floor up. Tear it up, tear it up, tear it up, tear it up. Come on, little mama, let's tear that dance floor up. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. La sua carriera si era fermata a 58 miglia dalla fama. Quella era la distanza che lo separava dalla consacrazione a prima star bianca del rock and roll ad apparire alla grande udienza della TV nazionale. Blue Suede Shoe gli aveva garantito un posto fisso al Big D Jamboree, un programma radiofonico registrato a Dallas con notevoli ripercussioni nella zona sud degli States. Il brano aveva cominciato a prendere piede prima nel mercato country, poi in quello degli adolescenti e infine nel circuito rhythm and blues. Burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. Il pezzo è più di un semplice hit. Con frasi semplici e dirette come slogan pubblicitari, diventa presto l'esempio perfetto di scrittura di un testo rock. Dopo quel successo, alla RCA erano seriamente preoccupati. Steve Shaw aveva chiamato Sam Phillips perché si era insinuato il dubbio che avessero preso quello sbagliato. Sembrava lanciato verso il successo, ma a 58 miglia dalla meta, quel sogno si era spezzato. Era il 21 marzo del 56 quando Carl e il suo gruppo, dopo un concerto a Norfolk in Virginia, si dirigono a New York allo show di Perry Como prima e quello di Ed Sullivan poi, per presentare il brano in diretta nazionale. Nei pressi di Dover, nel Delaware, il manager del gruppo ha un colpo di sonno e la loro macchina tampona violentemente un pick-up. I due veicoli finiscono fuori strada in uno stagno. Entrambi i conducenti muoiono sul colpo. Jay Perkins ha il collo fratturato e molte lesioni interne. Clayton se la cava solo con un braccio rotto, mentre Carr, che nell'impatto è finito testa in giù nello stagno, viene salvato da morte sicura dal suo batterista. Resta in coma per un giorno intero e a causa delle fratture alla clavicola e di tre vertebre cervicali perderà il treno del successo. Il destino è ancora più beffardo quando il giorno dopo esce il primo mitico LP di Elvis. Il brano d'apertura è proprio la sua Blue Suede Shoes che Elvis si rifiuta di far uscire come singolo per non sbarrare la strada al successo dell'amico. Con Perkins sulla via della guarigione, in maggio dà ancora mostra della sua abilità chitarristica compositiva con un altro classico del rockabilly, genere del quale verrà incoronato re, Boppin' the Blues. Well, all my friends are boppin' the blues, it must be going round. All my friends are boppin' the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, the doctor told me, Carl, you don't need no pills. Hey, the doctor told me, boy, you don't need no pills. Just a handful of nickels and jukebox will cure your ill. Well, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All them cats is bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Well, the old cat bug bit me, man, I don't feel no pain. Yeah, that jitterbug caught me, man, I don't feel no pain. I still love you, baby, but I'll never be the same. I said, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All my friends are bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Get it, cat. Ho sempre ascoltato la musica elettronica. Andavo ai rave a Riccione e Ibiza con Legnare. Poi ho ascoltato Cioccolato Bianco e Pota, ho vomitato anche le budella Osti. Thank you. Se non si fossero incontrati, sicuramente il leader Richard non sarebbe diventato l'architetto e re del rock and roll. L'aveva visto scendere dall'autobus della stazione di Macon, dove faceva il lavapiatti. Con il suo aspetto pittoresco forte del suo 1,90 m e la sua sfacciata ed evidente omosessualità, era impossibile non notarlo. Il suo tupè, soprattutto, era la cosa più esagerata mai vista, tanto che circolava voce fossero due parrucche una sull'altra. Gli immancabili occhiali neri alla Ray Charles, però tempestati di brillanti, nascondevano, dicono, un occhio di vetro, frutto di una rissa finita male. Il mito e la realtà avvolgono il personaggio dimenticato più importante della storia del rock. Escherita. Escherita è la pronuncia con l'accento della Carolina del Sud di Eskew Reader Jr., un pianista autodidatta, tanto bravo da suonare fin da piccolo nella Tabernacle Baptist Church, dove sua madre dirige il coro. Suona anche in casa di una certa signora Willis, dove ascolta anche le lezioni di opera delle sue due figlie, sviluppando quegli ululati in falsetto, copiati in seguito dal leader Richard. Lascia la scuola per unirsi a vari gruppi gospel, come quello di Brother Joe May o Sister All Am Terrell, che con la sua chitarra bluesy poteva rivaleggiare con la mitica Sister Rosetta Tharpe, e infine a un gruppo gospel di New York, gli Heavenly Echoes, con i quali registra un single di scarso successo. Nel 53 sbarca alla stazione di Macon. Con lui viaggia Sister Rosa Shaw, che accompagna al piano mentre lei vende i suoi panini benedetti. Si incontrano nel bagno ed è un vero e proprio colpo di fulmine. Escherita si innamora di quel ragazzo così effeminato. Richard li invita a casa e rimane colpito sia dalle mani enormi che da quel modo estremamente percussivo di suonare il piano quando si esibisce in One Man Julep dei Clovers. Escherita, vedendo il ragazzo stupefatto, promette insegnargli a suonare in quel modo e a conti fatti ci riuscirà. Torna nella sua Greensville, dove si esibisce in vari locali, fra cui il Lowell Club di Washington Street. Qui viene notato dal Blue Cap, Paul Peak, che lo vuole come session man per il single The Rock Around. Peak lo raccomanda a Jane Vincent, che spinge quelli della Capitol a provarlo. Se lui era il nuovo Elvis, Escherita poteva essere il nuovo leader Richard, anche se si trattava forse dell'originale. Vengono pubblicati alcuni single nel 58, purtroppo fuori tempo massimo, visto che la febbre del rock and roll era stata curata dal rock edulcorato dell'High School e la musica innocente dei Teen Idols. Peccato, perché il debutto con questa Rock in the Joint è da sballo, seguito l'anno dopo da Hey Miss Lucy e da un leggendario album di selvaggio rock and roll che non avrebbe sfigurato qualche anno prima. Visto l'insuccesso, va a Dallas e poi a New Orleans, dove si esibisce regolarmente al Dew Drop Inn con il nome di Magnificent Maloche. Oltre a suonare per molti artisti, Nel 70 torna da Richard, con il quale scrive Freedom Blues e suona il piano in questa Dew Drop In, nell'album di ritorno al rock di Richard dopo la crisi mistica. Certamente un debito di riconoscenza, confermato dalle parole dello stesso Richard, sempre parsimonioso in complimenti, che definisce Escherita come il suo maestro e uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi. Si stabilisce a New York, dove con il nome di Fabulash si esibisce nei locali gay, sgargiante più che mai. Nel 1985 lavora come guardiano in un parcheggio, poi come lavavetri in un incrocio a Brooklyn, vestito come se dovesse andare in scena all'Apollo. Muore il 23 ottobre dell'86, colpito da quel misterioso virus chiamato HIV e sepolto in una tomba senza nome nel cimitero degli indigenti di Potter's Field. Ovviamente l'allievo supererà di gran lunga il maestro e ne è la prova il terzo artefatto di Little Richard con l'irresistibile Rip It Up. Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to save. My heart say go, go, have a time for Saturday night. Now I'm feeling fine, I'm gonna rock it up. Tonight, got me a date and I won't be late. Pick her up in my 88. Shag go down by the Union Hall. When the joints start jumping, I have a ball. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rock it up and ball tonight. Along about 10, I'll be flying high, walk on out unto the sky. But I don't care if I spend my gold, cause tonight I'm gonna be one episode. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rock it up and ball tonight. Sono storie talmente paradossali e surrealiste da non sembrare vere, anche se purtroppo lo sono. I know you told me. Aveva 7 anni quella mattina del 37, quando sua mamma l'aveva messo sul treno che l'avrebbe portato in Florida. And I know La scuola St. Augustine era la fotografia perfetta della segregazione. I bambini prima erano divisi in sordi e ciechi, poi in maschi e femmine, grandi e piccoli, e infine in bianchi e neri. Oh, what makes me be? Be me child, fool for you. Per il piccolo Ray era la prima volta lontano da casa e dalla mamma. Durante la prima settimana non riusciva a smettere di piangere. Era anche la prima volta che provava sulla sua pelle la stupida follia della segregazione. Nella sua classe gli insegnanti erano esclusivamente afroamericani, così come i 35 bambini che lo circondavano. Erano diventati un gruppo forte e unito per far fronte ai soprusi dei bambini bianchi. È proprio questo il grande paradosso di una società malata: segregare dei bambini ciechi. Verso la fine dell'estate, i suoi occhi iniziano a peggiorare. Gli bruciano e gli causano un dolore insopportabile. Passa tutto l'autunno a letto bendato perché i medici decidono di asportargliene uno. Il giorno della vigilia di Natale si ritrova solo. Tutti, tranne lui, erano tornati a casa. So I know it's something. La scuola pagava solo il viaggio d'andata e ritorno per fine corso e sua madre non poteva certo permettersi di pagare il biglietto del treno. Triste e abbattuto, vaga per la scuola finché in una stanza riservata ai grandi tocca un pianoforte. Ci suona fino all'alba tutti i blues e i boogie-woogie imparati da Mr. Pittman con enorme piacere del custode. Nell'estate del 56, Ray Charles rielabora la Get It Over Baby di Ike Turner, farcito con uno straordinario assolo di sax a carico di Don Wilkerson e intitolata Hallelujah I Love Her So. Bring my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her. Oh, hallelujah. Don't you know, I just love her so. She's my little woman, we call this town. Babe, I'm a little fool for you, little girl. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Il colonnello Parker continua a spremere Elvis come un limone con la buccia edibile. Il ritmo è incessante. Il 28 gennaio lo fa esibire per la prima volta in TV nello show televisivo dei fratelli Dorsey, dove esegue tre canzoni, Shake, Rattle and Roll, Flip, Flop and Fly e I Got a Woman. Fra il pubblico non c'è molta gente, a causa del maltempo e del fatto che a New York Elvis è ancora uno sconosciuto. Visto che è in città, la RCA gli fa registrare due pezzi nel caso Heartbreak Hotel fosse un flop. Fra i brani registrati il 30 e il 31 gennaio ci sono questa Blue Suede Shoes e una debolissima versione di Tutti Frutti. I concerti si susseguono senza tregua, a volte con due esibizioni al giorno. Il 23 febbraio, a causa di questo regime frenetico, Elvis ha un collasso. I medici gli consigliano di prendersi una pausa, ma il colonnello lo convince a continuare fin dalla serata successiva. Esattamente un mese dopo, esce il primo album del cantante intitolato semplicemente Elvis Presley. L'iconica copertina, ripresa dai Clash per London Calling, immortala Elvis sul palco che mette in bella mostra le sue tonsille. Il disco batte ogni record, rimane in cima alle classifiche per 10 settimane ed è il primo della storia a superare il milione di copie. A fine mese è a Los Angeles negli studi della Paramount per due provini. Nel primo canta in plebe con una chitarra senza corde Blue Suede Shoes, mentre il secondo è per un western, The Rainmaker, che non andrà in porto. Un mese dopo firma un faraonico contratto per 7 film, coronando il suo sogno di diventare attore, come i suoi idoli Marlon Brando e James Dean. Ancora, non è consapevole che il salto nel mondo del cinema sarà un modo per promozionare la sua musica, visto che le sceneggiature sono così orride da far sembrare i cinepanettoni dei capolavori del neorealismo italiano. Mentre la Elvis mania cresce in maniera esponenziale, il 2 luglio si mette in studio per registrare un single storico, il primo ad avere entrambi i lati al numero 1 e a vendere la sbalorditiva cifra di 4 milioni di copie. Il lato A è una canzone scritta da Otis Blackwell che diventerà immortale con il titolo di Don't Be Cruel. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. picking up. Don't stop the hanking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. You ain't nothing but a hound dog, hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, hound dog, crying all the time. Well now you never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. In aprile, Elvis aveva suonato per 2 settimane in quella che anni più tardi diventerà la sua Camelot, Las Vegas. Quel pubblico di giocatori d'azzardo vecchi e annoiati non è certo quello che si aspetta. Nonostante la grossa delusione, ha modo di sentire il whitewashing di una canzone scritta da Leigh Berenstoller e interpretata splendidamente da Big Mama Thornton. Freddie Bell e i suoi Bell Boys avevano ripulito dai doppi sensi la storia di una donna che si libera del suo gigolò, sostituendola con un testo che parla di un cane da caccia. Il 5 giugno Elvis la canta nello show televisivo di Melton Burr. La performance fa scandalo ed è giudicata oscena e immorale per via di quei famosi colpi di bacino che gli varranno il soprannome di The Pelvis. La redazione del programma viene inondata da lettere di protesta perché quei movimenti giudicati primordiali e scabrosi non erano dati alle famiglie. A gettar più legna sul fuoco ci pensano una manciata di importanti giornalisti del paese, guidati dall'editorialista del New York Times, Jack Gould, che dall'alto dei loro pulpiti gridano lo scandalo. Agli americani fa eco anche l'Osservatore Romano, l'organo di stampa del Vaticano, che con un articolo intitolato «Attenti a Elvis Presley» allerta i giovani italiani dei pericoli che nasconde il rock and roll, colpevole della perdita dei valori morali e della delinquenza giovanile. Tutto fa pubblicità e il colonnello si sfrega le mani. Il 1 luglio, con la polemica ancora calda, Elvis è in uno degli show più seguiti del paese, quello di Steve Allen. Il conduttore rassicura il dirigente della NBC, dice di aver tutto sotto controllo e si assume ogni responsabilità, consapevole che il suo è un varietà rispettabile per famiglie americane. Dopo un breve preambolo sulla vicenda accaduta nello show di Milton Berle, il presentatore annuncia il nuovo Elvis Presley. Il re, vestito con un ridicolo frac con le code e con l'ordine tassativo di non scandalizzare, si ritrova a cantare a un segugio con un cappello a cilindro in testa. Elvis affermerà sempre che quella è stata l'occasione nella quale si è sentito più imbarazzato, dimenticando sicuramente la sua carriera cinematografica. No, Il giorno dopo quell'umiliazione, il 2 luglio, registra anche il lato B del suo favoloso single, che contiene uno dei suoi pezzi più famosi. Hound dog. You ain't nothing but a hound dog. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco. La storia del rock, quella vera.